piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. In tutto questo marasma troviamo gli insulti. Ma raga, io mi chiedo che problemi hanno quelli che insultano su YouTube. Ma perché insultate? Cioè, scrivere un commento positivo è bello, scrivere una critica è bello, ma scrivere figlio di puttana muore, che cazzo di senso ha? Quindi raga, prendendo spunto dalla mia serie delle risposte epiche agli insulti, ho deciso di rispondere agli insulti di questi haters che mi hanno scritto sotto i miei video. Allora, il nostro caro amico Angelo Berriola mi scrive un commento molto costruttivo. Fai cagare. Un grandissimo. Mi fa tenerezza questo ragazzo che legge gli insulti che postano sui suoi video. Sembra quasi che viva in un altro mondo, è convinto di vivere un mondo fatto di gente buona, di gente ben educata, di gente civilmente costruita, e quindi si meraviglia, come mai tutti insultano? Beh, questa è una bella domanda, la domanda ci stiamo ponendo in tanti, se lo pongono pure questa domanda, anzi soprattutto chi ha visto nascere la rete con grandi speranze a metà degli anni 90, quando per la prima volta in Italia si cominciava a parlare di internet come strumento comune, non soltanto per pochi iniziati. Cominciavano a girare i primi browser che potevano usare tutti, e si cominciava a parlare di motori di ricerca, e si cominciava a capire che esisteva una possibilità fantastica di scambio di opinioni, di possibilità di prolungamento dei propri orizzonti fisici, mentali, sensoriali. Beh, così non è stato. Devo dire che, pur avendo una grande fiducia e una grande e sicura certezza che il mondo non potrà mai più tornare indietro, a meno che non entriamo in un periodo di cataclisma post-nucleare, quindi rimarremo sempre connessi, avremo sempre più possibilità di connetterci in maniera indelebile, indissolubile con il resto del mondo. Sarà sempre più naturale per noi essere connessi. Nasceremo sempre di più con la consapevolezza che una delle facoltà che abbiamo, un senso aggiuntivo, è quello della connessione. Guardiamo, ascoltiamo, sentiamo gli odori, tocchiamo, e quindi abbiamo delle sensazioni nei nostri ricettori, e avremo anche la sensazione di essere connessi con l'umanità. Beh, perché però in questo particolare momento di passaggio l'essere connessi equivale a una sorta di esplosione così brutale degli aspetti più arcaici dell'umanità? Questa è una domanda che in questo momento non ha risposta. Vi posso dire che la rete ha semplicemente portato in superficie quello che l'umanità già era. Vi posso leggere, ho fermato alcuni sms della trasmissione di ieri in cui parlavo di raccomandazioni, in cui parlavo di raccomandazioni, che è un tema che mi dava comunque l'idea che potesse in qualche maniera toccare i punti più sensibili. Mi sono fermati gli sms. Uno mi scrive, un signore, poi fra l'altro mi scrive dandomi tutte le sue caratteristiche, ho qui davanti il suo numero di telefono. Io potrei adesso chiamare questo signore al telefono e chiedergli ragioni perché scrive una cosa del genere di uno che non conosce. Cosa scrive? Nicoletti, sei tu che ti sei dovuto concedere cardalmente per essere raccomandato. Ti hanno consumato le chiappe. Vuole essere una battuta? Non lo so. È un signore che insistentemente scrive, lanciando degli insulti discriminatori o sessuali al mio indirizzo. Ne feci un personaggio l'anno scorso, ma continua a scrivere, fiero di se stesso. Questo signore mi lascia anche il suo numero di telefono, usa gli sms, ormai è una maniera diciamo piuttosto arcaica di comunicare, ormai gli sms non li usano più nemmeno i nonni per comunicare con i nipoti, però dimostra una sua sorta di impavida dimostrazione di poter essere volgare, discriminatorio, aggressivo nei confronti di una persona che non conosce, conosce soltanto per averlo sentito alla radio. Ma se tanto mi dà tanto, figuriamoci quanto sono reattive le persone quando una persona con un minimo di presenza pubblica poi scrive su Twitter, scrive su Facebook. Ho postato ieri una mia foto qualsiasi su Instagram, come fanno tutti. Anch'io, come gli altri, uso i social network in maniera, se volete, narcisistica. Mi faccio una foto che sto davanti al microfono e la posto su Instagram. Posso anche giustificare me stesso, dico fa parte del mio lavoro, ma mi piace vedere le reazioni, subito le reazioni. Quanto sei brutto, c'hai le occhiaie, sei putrefatto, oppure non lo so, c'hai... immediatamente le persone si mettono dei pareri radicali nei confronti di una fotografia, ma lo fanno sempre, lo fanno con tutti, è normale, ci sono esempi da manuale. Ecco, perché accade questo nei social network? Beh, ci si pongono alcune domande. È un momento di passaggio, è un momento in cui, diciamo, la rete come strumento individuale è ancora giovane, oppure l'umanità mostra comunque, mostrerà sempre di più la sua vera faccia. In realtà sono più le persone incivili rispetto a quelle civilizzate, sono più le persone ignoranti rispetto a quelle che sono coltivate, sono più le persone che non hanno freno alla loro irruenza e odio e bisogno comunque di affermare in maniera violenta la loro volontà rispetto a quelle che hanno appreso la difficile arte della negoziazione, del dialogo, del pensiero articolato. Matteo Grandi, cosa ne dici? Buongiorno innanzitutto, un saluto agli ascoltatori. Io credo che il problema oggi di questo ambiente avvelenato sui social network si ponga veramente su tantissimi livelli. Da un lato, secondo me, ci stiamo proprio riconfigurando a livello di ambiente e di contesto. Oggi i nativi digitali sono in minoranza, la maggior parte delle persone che usano i social network sono persone che sono nate prima della rete, prima del web e che forse non hanno ancora avuto la capacità di riconfigurarsi. Sono quelli che dicono buongiornissimo la mattina a caffè, fanno pulizia contatti, presi in giro dalla rete, i cinquantenni alla tastiera. Sono anche quelli, ma poi sono quelli che si rivolgono agli strani piuttosto che ai personaggi politici, piuttosto che personaggi famosi, con l'insulto, augurando la morte, augurando lo stupro. Cioè, sono persone che probabilmente quando si muovono sul web non hanno la percezione del contesto in cui si muovono e ai quali manca a oggi, a mio avviso, una alfabetizzazione digitale che gli permetta di capire anche quelle che sono le conseguenze delle proprie sparate. Allora, ho chiamato Matteo Grandi a aiutarmi in questa mia riflessione piena di dubbi. È un giornalista, un autore televisivo, è anche perugino. Sei nato a Perugia, ma vivi a Perugia? Sono nato a Perugia e vivo a Perugia, ecco, ancora. Esatto. Io da Perugia sono fuggito, però quindi abbiamo anche delle radici comuni, quindi conosciamo bene quanto può essere violenta la provincia. Perché Matteo Grandi ha appena pubblicato un libro, Far Web, per Rizzoli, è Odio, bufale, bullismo, il lato oscuro dei social, in cui fa un'analisi molto attuale, legata agli episodi proprio di cui abbiamo parlato anche nelle trasmissioni degli ultimi mesi, che danno proprio questa idea. Che idea ti sei fatto dopo il tuo studio e la tua analisi? L'umanità è sempre stata così e così. Il brutale che ogni giorno manda sms accusandomi di essere finocchio, cose peggiori dalla mattina alla sera con questa ossessione, fa parte di un'umanità che comunque ha sempre avuto l'odio per le persone che considera magari privilegiate rispetto a loro? O la rete in sé incentiva e incrementa questo atteggiamento di aggressività? La mia idea è che tutto quello che noi vediamo si possa tradurre con una metafora straordinaria del giornalista Zambardino, che a un certo punto disse: la merda è sempre esistita, internet ce ne fa soltanto sentire l'odore. Allora, questo per dire cosa? Che in realtà queste frustrazioni, questo odio che così prepotentemente emerge, questo razzismo anche strisciante, questa misoginia, non sono altro che una rappresentazione, una lente di ingrandimento su quella che è la realtà, dal mio punto di vista. La rete, da un punto di vista strutturale, non contribuisce a peggiorare o ad avvelenare il clima. La rete semmai contribuisce in un altro senso, nell'amplificazione del messaggio. Il vero problema quando noi parliamo di social network, quando parliamo di odio online, secondo me è proprio questo, è l'amplificazione del messaggio. Ritornando alla storica frase di Eco, il web ha dato diritto di parola a legioni di imbecilli. Ora, secondo me il diritto di parola è anche legittimo. Il problema qual è? Il problema è che delle sparate, delle castronerie assolute, delle istigazioni al razzismo e alla violenza, se tu le dici a casa, al bar, rimangono nelle quattro mura e non escono da là. Se tu le dici online, rischiano di diventare virali perché la rete ha questa straordinaria capacità di amplificare il messaggio. Ecco, io al tempo d'odio. Che Eco se ne uscì prima, quando ancora era vivo, con questa frase, fui fra i pochi che lo contestò apertamente. Disse: caro professore, bisogna cominciare a sporcarsi gli stivali, bisogna cominciare a capire che il mondo è questo, il mondo è il contesto in cui si muoverà anche l'intellettuale, anche il portatore di un sapere strutturato, articolato, sarà questo. Con queste persone bisogna cominciare a negoziare, a imparare a avere comunque dei rapporti e per quanto possibile quello che un docente universitario, uno scrittore, un autore, un maestro di pensiero ha sempre fatto rispetto a circoli chiusi che sceglievano comunque di leggere i suoi libri, di seguire le sue lezioni, di vedere i suoi film, di ascoltare le su trasmissione radio. Oggi bisogna andare in una sorta di terreno di barbari, ma però c'è una differenza, secondo me. La differenza rispetto a quello che giustamente sta dicendo Matteo Grandi, che la rete non fa altro far sentire l'odore della parte putrefatta dell'umanità che c'è sempre stata, esiste un problema diverso. Esiste il mainstream, cioè esiste il meccanismo di racconto della realtà tradizionale, giornali, televisione, radio, persone già accreditate comunque a raccontare il mondo, che di fronte a questa realtà si pongono in maniera anche piuttosto ambigua molte volte ne traggono quasi ispirazione. Sembra quasi che poi questa sorta di virulenza che esplode, diventa manifesta in rete, diventi quasi un linguaggio tradizionale, un linguaggio usuale anche nei mezzi che hanno sempre avuto un certo rispetto. Ci sono mille episodi, noti giornalisti che si esprimono con termini discriminatori, razzistici, che normalmente sembrano tolti dal linguaggio comune. C'è come un ritorno indietro. Cosa ne pensa Maura Manca? Salve Nicoletti, salve a tutti. Allora, io stavo ascoltando con molto interesse quello che è stato detto, anche appunto. Io credo una cosa, che questa sia la vera faccia dell'umanità, nel senso che molte volte ci scandalizziamo di quello che accade in rete e forse non vogliamo vedere le cose come stanno, cioè non capiamo che non è né un'app né un social che rende le persone frustrate, che rende le persone bulle o quant'altro, perché basta ascoltare anche quello che si dice per strada o quello che il malumore delle persone. L'unica cosa è che forse su cui dobbiamo ragionare è che non è un lato oscuro come tendiamo a definirlo, ma è un lato piuttosto chiaro. Ecco, piuttosto ricordo evidente. Maura Manca, l'ho chiamata in causa senza presentarla perché è venuta spesso nelle nostre missioni. Comunque è una psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza. Per noi ha presentato vari libri, fra cui ricordo Generazione Hashtag, Gli adolescenti disconnessi, edizioni Alpes. Quindi ha un osservatorio in cui osserva la parte più fragile, più debole di questo meccanismo, che sono gli adolescenti, che apparentemente hanno una grande alfabetizzazione e capacità di movimento tecnico in questo ambiente, però ai quali manca un retroterra di esperienza di vita, sicché molte volte sono le vittime più fragili. Se fosse soltanto un discorso di analisi scandalizzata del linguaggio, potremmo anche finirla qua, ognuno dice quello che vuole. Poi in realtà, Maura, ci sono delle ricadute nella vita concreta, pratica e nella sofferenza reale delle persone. Assolutamente sì, il discorso è che loro non sono talmente tanto abituati alla loro normalità a comunicare attraverso un mezzo e quindi a parlare con immagini, con video e non direttamente, non sintonizzandosi con le emozioni, che si sentono quasi in un certo senso legittimati, un mondo che li rende troppo circoscritti a loro stessi e non a un gruppo, non agli altri. Questo però li rende estremamente fragili, sia chi, qui non è una guerra gli haters contro non haters o cyberbully e quant'altro, qui è un discorso che sono ragazzi fragili, che non sono in grado di navigare in autonomia in questo mare, ma semplicemente rischiano di naufragare costantemente, perché non si rendono conto di quanto fondamentalmente ci sia un discorso di cioè che non possano esprimere tutto, cioè il problema non è che non possono esprimere, il problema è perché arrivano a esprimere tutta quella rabbia, quella frustrazione, perché sono così inconsapevoli di essere comunque delle persone che violano lo spazio dell'altro, l'intimità dell'altro, che non si rendono conto. Però Maura, io onestamente, sì, chiaro, tu ti osservi, hai il tuo osservatorio e osservi i giovani in quanto poi persone fragili, però sai, questo atteggiamento che è un infantilismo terrificante lo vedo anche negli adulti, soprattutto negli adulti. Io ho scoperto odiatori e odiatrici bestiali che si esprimono in maniera che, ti giuro, ma nemmeno nei miei peggiori momenti di ubriachezza mi sono espresso, e non sono certo uno che ci va liscio, essendo umbro toscano, e lo sa bene a cosa corrisponde Matteo Grandi. Beh, che poi vai a vedere i loro profili, sono signore, madri di famiglia, tranquille nonnine che mi hanno detto tu hai il DNA marcio, quindi non rompere le scatole se c'è un figlio disabile. Insomma, lo vedo abbastanza diffuso questo tentativo di dare il peggio di sé. io non voglio che mi insultate, perché ci sono rimasta veramente male. E ciò che non posso piangere, perché quest'occhio è gonfio. Come potete notare, quando lo alzo faccio l'occhio di qui, perché è molto gonfio. Questa è una ragazzina, una bambina. Il fatto che sia bambina non la esclude alla contaminazione con tutto il mondo di cui stiamo parlando. Dove trova un luogo adatto e consono per esprimere il suo disagio, la sua paura? Facendo un video su YouTube, mettendo su YouTube il fatto che lei è spaventata e non capisce perché la odino. Maura Manca, come commenti questa cosa che hai ascoltato? No, purtroppo poi oggi l'età si è abbassata tantissimo, questo non si vuole vedere, non si vuole capire, che i bambini ormai sono abituati a comunicare attraverso i video, attraverso le chat, e per loro quello è il canale espressivo per dire qualsiasi cosa e condividere qualsiasi cosa, il confine tra pubblico e privato, questi ragazzi non ce l'hanno, ed è questo che poi li porta a fare e a mettere in atto qualsiasi tipo di azione. Se noi non vogliamo comprendere questo della nuova generazione, poi non riusciamo a capire perché da adulti crescono in un determinato modo, perché da adolescenti si comportano in un altro modo. Ecco, tu, diciamo, da esperta del settore, tu prevedi delle mutazioni proprio antropologiche nelle generazioni dei ventenni, trentenni che si affacceranno comunque al mondo tra qualche anno, proprio perché sono passate attraverso questo tipo di training molto diverso, non ha precedenti? Assolutamente sì, c'è purtroppo un livello di psicopatologia, cioè di problematiche gravi, quindi non parliamo solo di disagi espressi in maniera superficiale e manifesta, che si sta aggravando e l'età si sta abbassando. E fammi qualche esempio concreto, così capiamo. Significa di bambini che hanno già depressioni, che hanno già disturbi d'ansia, ma 8, 9 anni, che manifestano già dei problemi relazionali, di isolamento estremamente importante. È inutile che noi andiamo a cercare poi l'hikikomori o cioè quei ragazzi che non escono più di casa o quello o quell'altro, ma guardiamoli che quando sono bambini hanno già problemi di non riescono a relazionarsi, tante persone hanno delle fobie sociali, cioè proprio paura di confrontarsi, di relazionarsi agli altri, i disturbi del comportamento, ma parliamo di problemi evidenti, clinica. Io poi sono uno psicopatologo, quindi mi occupo proprio di questi aspetti, e questa generazione sarà la generazione di domani, e questo è quello che a me preoccupa. Tu sei stata tanto la prima a tirare fuori un problema molto cruento e molto difficile a esprimere, ancora la scuola non ha fatto i conti con l'autolesionismo, i ragazzi che si tagliano, si fanno del male, si creano delle ferite anche profonde per segnalare comunque un disagio, non si sa bene perché. È legato anche questo a questa sorta di vita parallela, seconda vita rispetto al mondo concreto? Sicuramente l'autolesionismo adesso è un problema emergente, è enorme, dove è già 11 anni, 12 anni, abbiamo bambini che si tagliano sistematicamente e la rete li sta aiutando a esprimere il loro dolore, a trovare rinforzo a queste comunità, perché parliamoci chiaro, oggi fin da bambini vivono dentro quella rete, per cui ci sono i pro, ci sono i contro, e questo problema è un problema che quando noi parliamo con loro ci raccontano che non riescono a parlare, non riescono a esprimersi, si sentono soli e lo sfogano sul corpo. È questo quello su cui dobbiamo riflettere, perché la rete è la manifestazione di ciò che loro hanno dentro. Allora, ricordo il libro di Matteo Grandi, Far Web, che è un libro appena uscito, Odio, bufale, bullismo, il lato oscuro dei social, Rizzoli, che è proprio un libro dove elenca tutti quelli che sono gli episodi che sono diventati per categorie esemplificativi quando la stampa tradizionale parla di rete. Però c'è un'espressione che mi piace di Matteo Grandi, che ancora non aveva mai usato nessuno: il popolino della rete. Spiega cos'è il popolino della rete. Ma guarda, in realtà è una provocazione, perché io, per esempio, una delle locuzioni per le quali proprio mi viene l'orticaria è quando leggo sui social. Il popolo della rete ha deciso. Il popolo della rete. Il popolo della rete è una cosa che veramente mi fa andare al manicomio. Il popolo della rete non esiste. Cioè, come definire chi va al supermercato il popolo della salumeria? È come se fosse una tribù. Quelli che frequentano la rete. Il popolo della rete in realtà siamo tutti. Il problema qual è? Valeva forse 20 anni fa, forse, che erano quattro gatti in Italia. Esatto, e forse. In realtà il popolo della rete non esiste tanto quanto non esiste il popolino della rete, però il popolino della rete, dovendo assecondare questo tipo di provocazione, è quella tipologia di utente che non solo sfoga le proprie frustrazioni sui social, ne abbiamo abbondantemente parlato, ma anche quella forma, come dire, di upgrade della frustrazione incarnata dal moralista dittatore, che però nel momento in cui diventa moralizzatore si comporta molto peggio dell'abitato di turno. E allora ti capita, e diventa un cortocircuito assoluto, che magari una persona che ha avuto un'uscita infelice di tenore razzista venga redarguita dal moralizzatore di turno che le augura di essere stuprata da un nero. Cioè, siamo alla follia pura. Sì, adesso non so se riusciremo a trovare Selvaggio Lucarelli, ma è un esempio, l'abbiamo chiamata più volte, è un personaggio pubblico, una scrittrice, una giornalista, animatrice di spettacoli televisivi, però sta svolgendo un'operazione meritoria. Si è esposta proprio in prima persona a denunciare fisicamente le persone che hanno questi comportamenti. Ultimamente, oggi ha messo, ieri l'altro, anzi, ha messo la foto di due signori pieni di tatuaggi, con le solite facce spavalde, sembrano usciti da un videoclip di rock duro, che gli stanno proprio proponendo di essere stuprata da un nero, perché sembra che sia la somma dell'immaginario. Lei ha detto molto, molto tranquillamente: io di questi so il nome di uno, mi aiuta a trovare il nome di quell'altro, che li voglio semplicemente denunciare. Questi due, per risposta, hanno messo le loro foto ancora più tatuate, dicendo: è così, vedete crescere quella bella barbetta che cresce sulla faccia delle persone che stanno in galera. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno. Ricordo, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, dirige il Bicocca Security Lab. Allora, Andrea Rossetti, di questo argomento noi parliamo da circa una decina d'anni, più o meno. Siamo arrivati però a un punto in cui è difficile capire, è difficile fare una linea di demarcazione, chi siano i buoni e chi siano i cattivi. Ultimo episodio. Il giornalista Marco Travaglio, persona illuminata, intelligente, esce una battuta infelice, tirando in campo con un'accezione negativa mongoloidi, il termine mongoloidi, bruttissimo, pensavo una parola fosse scomparsa dal vocabolario delle persone civilizzate. C'è una grossa reazione dentro e fuori la rete, naturalmente c'è chi lo difende, diventa una questione politica, ma dopo due giorni una giornalista scrive un tweet a proposito del bambino appena nato di Battista, dicendo: non hai fatto l'amniocentesi, non valutando che è una frase bestiale, non si può dire hai fatto l'amniocentesi di un bambino appena nato pubblicamente, non rendendosene conto. Ma come mai ancora non c'è consapevolezza nemmeno nelle persone culturalmente, socialmente, intellettualmente più avanzate, di quanto non sia più possibile esprimersi pubblicamente attraverso i social come ci si esprime quando si è seduti a casa propria di fronte ai tre o quattro familiari, in cui magari uno può dire quello che pensa veramente? Abbiamo per anni detto che internet è stata la tecnologia che al mondo si diffuse più velocemente. In realtà quello che è avvenuto negli ultimi 10 anni è che abbiamo scoperto che la tecnologia che ha avuto il maggior tasso di penetrazione è stata quella dei social network. Cioè i social network, un social network come Facebook è passato in poco più di 10 anni da 0 a quasi 2 miliardi di utenti, anzi forse 2 miliardi li ha superati. Siamo davanti a una rivoluzione che banalmente non abbiamo ancora imparato a digerire, cioè siamo ancora abituati a pensare con i modelli che avevamo prima, no? Quindi con modelli che facevano sì che la nostra chiacchiera al limite si diffondesse tra poche persone. Come diceva Marco Grande nel libro, è sintomatico il fatto che oggi sempre più spesso gli odiatori non si nascondono dietro l'anonimato, ma sono persone che mettono il loro nome, il loro cognome e la loro faccia, proprio fregandosene completamente, non percependo assolutamente il fatto che sono facilmente, tutto sommato, ricontattabili. Però questo mi fa ancora più paura, sembra quasi ci sia una consapevolezza che tanto il mondo è cambiato, che tanto vinceranno loro, sono come le avanguardie di un nuovo mondo in cui tutto questo sarà lecito, tutto quello che viene bollato come politicamente corretto io devo sopportare l'onta di essere chiamato buonista, che nella vita non me l'ha mai detto nessuno, ma da quando ero bambino, ma sempre detto che era un infame. E adesso sono buonista rispetto a questa sorta di nuova barbarie che è convinta che il mondo diventerà così, che hanno ragione loro, che tanto da qui a pochi mesi, a pochi giorni, a pochi istanti, saranno loro a imporre comunque la maniera di pensare. Non è anche te questa impressione? Guarda, questa impressione effettivamente ce l'ho anch'io. Questo nuovo mezzo di comunicazione, appunto, che elimina qualunque considerazione di carattere prosenico, no? Cioè io non vedo che ho davanti, quindi non vedo la sua faccia, non vedo i suoi gesti, non percepisco la sua vicinanza, effettivamente sembra scatenare gli istinti più bassi di molti di noi, non tutti. Io penso che alla fine comunque la maggioranza degli utenti siano ancora persone che cercano di comportarsi con correttezza. Non dimentichiamo che coloro che interagiscono effettivamente anche in Facebook sono una piccolissima minoranza rispetto a coloro che effettivamente sono iscritti. Però questi che interagiscono fanno molto rumore, sono molto aggressivi. Effettivamente iniziative come quella di Selvaggio Luccarelli o del Presidente della Camera di denunciare, a me sembra una cosa molto buona, mi sembra una cosa positiva. È una cosa che io farei utilizzando gli strumenti di legge, questo sì, no? Proprio perché queste persone diffamano, offendono. Allora quello che bisogna fare è mettere davanti a un processo, non importa se sono delle persone che nella vita poi appunto ricoprono ruoli assolutamente minori rispetto magari a queste altre persone. Sì, alla fine vai sempre a vedere, cioè sembra di sparare sulla Croce Rossa, sono dei poveretti, sono esattamente il personaggio di Crozza, come viene rappresentato da Crozza, gente che vive così, però esistono anche loro, e in questo momento la loro operatività, in realtà, secondo me, sta cambiando anche la maniera di informare. Anche i giornali stanno cambiando, anche la televisione sta cambiando. Sembra qua ci sia una sorta di osmosi irrefrenabile tra quello che era il tradizionale sistema dei media di racconto della realtà e questa sorta di spontaneismo mediatico che nasce proprio basato su quello che è di più incivile, di più lontano la nostra civilizzazione noi abbiamo. Melog. Ciao, sono Marianna, Mary delle Iene. Ciao. Ciao. Ti volevo presentare una mia amica. Ciao, Mary. Come stai? Dove? Piacere vederti. Come? Mi devi dire qualcosa? No. Sì, devi dirti un paio di cosine. Un paio di cosine, sì. Mi devi rimproverare? No, rimproverare no. Ti voglio solo chiedere per quale motivo mi scrivi sta schifosa. Tanto ormai non c'è più nulla di cui stupirsi su Bellacchia. La data cani e porci, Berlusca compreso, è come una porta. Si fa sbattere da tutti sta lurida schifosa. Allora, ti posso dire la verità? Adesso che ti sto conoscendo magari... Questa è Belen, che tramite un meccanismo che ha messo a punto la trasmissione delle Iene, viene messa a contatto con la sua Ether. L'ha insultata bestialmente in rete. Questo accade più volte, le Iene lo fanno presto, è un programma di svelamento di alcuni meccanismi che molte volte si capiscono meglio come funziona quando lo vedi rappresentato. Entra Belen, bellissima come naturalmente è, indubbiamente è, oggettivamente è, contatto questa signora pugliese, ma non perché pugliese sia un demerito, ma la vedi col maritino lì vicino, sprovveduta, messa a confronto, sembra veramente qualcosa che non regge il confronto. Pensare e ragionare su quello che è il livello di volgarità, di insulti, di profondo e radicale maschilismo espresso da questa tranquilla signora, paciosa, con il marito vicino, che non capisce nemmeno cosa sta accadendo, è veramente abissale capire quale sia il meccanismo che c'è dietro. Matteo Grandi, autore di Far Web, tu poi hai classificato tutta una serie di fenomeni che vengono paralleli. Ti sei mai chiesto, perlomeno hai analizzato in realtà quale sia il profilo medio dell'odiatore in rete? Guarda, c'è una trasmissione secondo me emblematica da questo punto di vista, è una trasmissione svedese che si chiama Troll Hunters, in cui lì in realtà loro si concentrano sugli hater anonimi, però questo non sposta di molto l'analisi complessiva. E loro muovono la redazione andando di volta in volta a pescare gli autori di atti appunto di bullismo, di violenze varie, di istigazione al razzismo in rete, che si nascondono sotto i profili anonimi in Svezia. Sistematicamente ne viene fuori un quadro dell'hater che è assolutamente non codificabile, perché viene fuori di tutto, cioè tu ti aspetti magari l'estremista di destra piuttosto che il giovanotto nerboruto, incazzoso, in realtà viene fuori la ragazzina di 16 anni, viene fuori la casalinga, viene fuori una tale trasversalità di soggetti che oggi tracciare un identikit dell'hater perfetto è assolutamente impossibile, sono tutti hater potenzialmente. Scusami, Maura Manca, fammi capire da questo punto di vista. Quindi c'è una componente, l'umanità, siamo anche animali in fondo nella nostra profonda radice, che stranamente viene in maniera virulenta, massiva, in superficie attraverso questa divertentissima maniera di usare le nostre protesi emotive quotidianamente. Esatto, la rete per esprimere le proprie compressioni, si cerca quasi un ruolo all'interno della rete, quel ruolo che noi non riusciamo magari a trovare nelle nostre dinamiche. Tutto quello che abbiamo costruito ci dà, abbiamo quello spazio a disposizione per poter appunto dare libero sfogo alle nostre problematiche personali. Facciamo un esempio. Flavia, buongiorno. Buongiorno. Flavia è una studentessa universitaria, è stata testimonial per la Polizia Postale nelle campagne contro il bullismo, di cui per anni è stata vittima anche a scuola. Vediamo dal tuo punto di vista, proprio sei stata, tu sei rappresentativa di una categoria, molte volte rimane nascosta, ma perché? Perché è terrorizzata, perché non gli va di venire in superficie, o perché ci sono anche motivi di coinvolgimento talmente profondo e talmente vigliacco che molte volte non hai proprio gli strumenti. Come è nata, come è cominciata, diciamo, il tuo desiderio di uscire allo scoperto? Io ho avuto la fortuna comunque di essere supportata dalla mia famiglia, da alcuni insegnanti che mi hanno aiutato a superare tutto questo dolore, perché io sono stata sia bullizzata, ma sia nel mondo reale sia nel mondo virtuale. Perché qui andava pari passo l'azione violenta. Sì, diciamo che quando è terminata una è iniziata l'altra, quindi non mi hanno dato tregua in questo senso. Qual era il motivo? Non c'era un motivo particolare? Ma il motivo era perché ero brava a scuola, perché non rispettavo i canoni della bellezza che gli altri seguivano. Perché eri ribelle, comunque eri ribelle rispetto all'omologazione altrui, ecco. Sì. Però per fortuna comunque io, anche se ci ho messo un po' di tempo, venivo spesso incoraggiata dai miei a parlare di quello che succedeva a scuola. Ecco, spiega un po' quali erano le azioni concrete contro di te, così sennò se no parliamo solo per astratto. Beh, allora, per quanto riguarda a livello fisico, spesso mi spingevano in mezzo alla strada, oppure mi prendevano i materiali di scuola e li rompevano, mi prendevano in giro chiamandomi con appellativi un po' brutti, cioè perché ero cicciona. Perché e nessuno ero prendeva cicciona. Le tue difese, in assoluto nessuno? No, qualcuno ci ha provato a prenderle, solamente i miei compagni per esempio non evitavano, perché avevano paura pure loro poi di essere presi in giro e magari essere messi anche loro da parte. Ma cos'è che dà forza al branco? Perché a un certo punto nessuno si ribella? Cosa sono più grandi, più forti, più spietati? Perché nessuno prende di petto questo e ne esce fuori da questo meccanismo? Perché secondo me è una questione sia di paura magari di ricadere nelle stesse azioni che il branco compie verso gli altri, ma poi che il gruppo sono tanti contro uno, si sentono più forti, quindi pensano di avere il gioco facile. Allora, Flavia ci sta dando una testimonianza, una delle tantissime, di giovane ragazza che è vittima comunque del branco. Andrea Rossetti, quanto questa sensazione che noi pensavamo, immaginavamo, ci illudevamo fosse relegata al mondo dell'adolescenza, in realtà si riverbera anche nel mondo degli adulti? Beh, ma io direi in molti casi, no? Io per anni ho fatto l'arbitro di pallacanestro e vedevo compite signore e signori che dal pubblico, forse facendosi scudo appunto dell'anonimato che godevano del PT, mi rovesciavano addosso insulti incredibili. Quindi in realtà questa cosa che il gruppo dà forza in qualche modo e rende in qualche modo bestiale è una cosa che caratterizza, credo, l'agire umano. Insomma, quando agiamo in folla, in gruppo, in realtà non siamo più perfettamente padroni probabilmente delle nostre opinioni, delle nostre passioni, e ci lasciamo andare a cose che probabilmente da soli non faremmo mai. E in rete ancora una volta questo messaggio, questo meccanismo viene amplificato, come si diceva anche prima. Ma il deterrente dello strumento giuridico, secondo te, sarà sufficiente? Beh, ma qui è davvero complicato quale strumento giuridico mettere in atto in casi come questi, perché va bene, nel caso poi della ragazzina abbiamo a che fare con minorenni, quindi qui più che di giuridico si tratta probabilmente di mettere in atto una serie di provvedimenti di carattere didattico, educativo. Per gli adulti anche qui come si fa a isolare colui che ha dato effettivamente il via ai disordini dello stadio? Come si fa a isolare chi ha dato o individuare tutti coloro che, oddio no, si potrebbe anche fare, no? Con le tecnologie moderne io fotografo la faccia di tutti, ma avrebbe davvero senso? Anche qui il nostro problema quando abbiamo a che fare con le nuove tecnologie è che noi effettivamente possiamo conoscere tutti coloro che fanno un'azione che non si dovrebbe fare, in qualche modo illecita, però a volte sono così tanti che effettivamente non si hanno gli strumenti economici in questo caso per perseguirli tutti, no? Poi questo quindi conferma quello che abbiamo detto poco fa, la nostra impressione. Il branco in senso ampio, il branco indefinibile, come ci ha detto Matteo Grandi, che non ha assolutamente una sua connotazione specifica, di cui tutti facciamo parte, alla fine tutti siamo responsabili, ha questa sorta di euforia dell'impunità, sapendo, avendo come l'impressione, ci siamo tanti, siamo più noi, stiamo in qualche maniera coinvolgendo con la nostra non opinione, con il nostro non pensiero il mondo, stiamo coinvolgendo i media, alla fine diventeremo noi e ci mangeremo tutti gli altri. Però questo, secondo me, è una visione abbastanza limitata. È chiaro, il mondo moderno, contemporaneo, è molto più complesso di quello che conoscevamo soltanto 10-20 anni fa, ma anche il mondo di 20 anni fa era complesso rispetto a quello precedente, anche l'era moderna è più complessa rispetto al Medioevo, l'epoca è più arcaica, il mondo assume sempre più complessità, poi trova sempre le maniere, comunque, gli ammortizzatori per gestire anche le complessità. Noi siamo in un momento di passaggio, per questo siamo sconcertati, ma vedrete, si troverà gli strumenti, noi forse non li vedremo, per dare anche ordine a questa fantastica e terrificante irruzione dell'umanità in tutte le possibilità di esprimere anche il lato peggiore di se stessa. Alla prossima.